già occupato. Avanti di qui. Aspetta il microforte, sto usando il microforte, non male. Aspetta che te lo tolgo dal tavolino, perché nel soffro nel con il cazzo lì. Va bene, tu vabbè, mi hai detto, magari sei, tipo come pensate un... Praticamente sul conto ti fanno pagare di più. Ah, ok. Vabbè, tu allora sai cosa fai? Quando fai così e ti metti d'accordo con qualche poveretto che ha bisogno di mangiare, e guarda che dopo fra mezz'ora ti chiamo, perché io sono stato fino a Gnocchi, entra tu e così ti mangi quello che avanza e niente multa. Niente, non so proprio. preferisco che sia in meno o che in più mi sale, capito? Auguri, è quella la cosa importante, certo, hai fatto bene già, è che ce la facciamo fare a andare in tempo con quella macchina, finché la macchina non ti fa spendere soldi si può anche tenere, ma una volta che comincia a farti aprire il portafoglio, ma chi ce la fa fare? Vai, compra la nuova, non se la fa da più, stai lavorando, te la paghi e sei a posto. Ma tu non hai idea di quante macchine si trovano a mezzo euro, ma che buonissime condizioni, mi, almeno in come carrozzeria eccetera, ma veramente, veramente in ultime condizioni, solo che essendo macchine grosse non hanno mercato, per cui poi quando cominciano a avere tutti quegli altri è chiaro che perde di valore, ma è così già, è proprio così. Certo, quando si va a comprare queste macchine costano uno che della testa, invece quando vuoi a vendere la testa devi regalare per non pagare la rottamazione, ma è così già, lo so, sì. Thank you. carine, la può fare. Ma questa batteria tu non mi crederai, l'ho usata roba di 8 anni nella macchina, poi l'ho usata altri 2 o 3 anni nel motocarro. Ho rotavato sia la macchina che il motocarro, ho tolto la batteria, l'ho portata in bottega e ogni tanto qualcuno che aveva problemi nella strada lì veniva da me e chiedeva il prestito con la batteria perché l'avevo recuperata, poi a domandare e non utilizzando la terminata e l'ho buttata via al concesso, è ovvio. Sicuramente così, ma va bene, ti dirò che questa che ho preso adesso è una marca abbastanza, che non mi ricordo, anche una marca che non ho nemmeno mai sentito, per cui non si crede, non è una Bosch, non è una Varta, non è, diciamo, una marca abbastanza, ma che è una batteria di città mercato, ti puoi immaginare, ma batteria di marca non c'è nessuno, non l'ho mai visto. Poi l'ho pagata 40 euro nemmeno, 39 non basta, si può immaginare. Stiamo lavorando e mi funziona bene, anche se mi dura l'altro, che te ne frega, vado da comprare un'altra altri 40 euro e sto viaggiando ugualmente già. Tanto tu vai da Nelle Krause, io ho visto gente che andava a Nelle Krause a cambiare la batteria e cosa faceva Nelle Krause? Andava a centro mercato, la comprava e gli metteva quella, 120, 130 euro. 140 euro, ma che cazzo stai, ma vai, è una cosa che posso fare da solo e non c'è troppo problema. Antonello mi ha accompagnato, sono andato, ho comprato la batteria, ma ho fatto giù lui, è avviata subito, non c'era bisogno di ricaricarla perché era già carica. Thank you. Franco, Franco, oh, perché il mio forse allo smerato, no? Attaccato a Walter. Ma quando ho cambiato le partite, la macchina stava benissimo, la verità, è sempre, ancora lui che spero benissimo, non ci sono problemi. Però, sono stato, roba di 6-7 mesi, 8 mesi, che tutte le volte che arrivavo a casa quando ferravo fischiava. Se la roba è, se è porta, me le dice che te li metto, ti metto quelli di destra, ti metto a sinistra e quelli che metto, perché dice che le trame che c'è nel ferro con la CNT nelle partite, che è quello che fischia. Ma cosa è successo? Che lui per risparmiare magari 20 euro, per guadagnare 20 euro, non l'ha messo con l'originale, ecco perché fischiava, però col tempo poi questo rumore già te l'ha lasciato, non fischia più adesso. Thank you. male da mai, e perché io non voglio avere, non voglio nemmeno stipendio, non voglio niente. Io insegnerei il mestiere ai giovani, invece considerato che oggi il falegname sta scomparendo del tutto, no? Non ce ne sono più a Sassari, ce n'è uno, due massimo, no? Non di più di tutto Sassari. Poi ne trovi qualcuno lì a Bellarieta, per cui il mestiere sta morendo anche a Sassari così. fattura sotto deve essere almeno minimo 8 cm di altezza, praticamente a livello delle come si dice, del rivestimento dei mattoni che ci sono attorno nella casa, no? Come si chiamano quelli appartamenti, quelle cose. Quando la mattone è attaccata al muro, non lavora, un momento di atletica. Vabbè, comunque, deve essere la decoratura di almeno 8 cm, da 8 a 10 cm, qui, in modo che quando una va per terra, una donna o qualsiasi persona, non si, anche se si inumidisce non le fa niente. Se invece tu mi metti la decoratura o i fianchi che arrivano fino per terra, è chiaro che quando passa lo straccio per lavare per terra, è chiaro che inumidisce anche quello, essendo strutturale si sbriciola e si sfuglia, e prima o poi se ne cade addosso anche l'armadio, perché succede così. E poi un altro particolare, lo schienale dietro, lo schienale deve essere pesante, molto pesante, perché quando apri gli sportelli non ti si deve rovesciare addosso, perché il peso quando tu gli apri gli sportelli ricade tutta la parte davanti, come succede a mia nipote che un giorno stava sistemando l'armadio, stava sistemando, ha preso tutti gli sportelli e si è rovesciata addosso, e c'era anche la bambina, fortunatamente la bambina piccola è rimasta dentro, è rimasta perché c'erano gli sportelli aperti, ed è finito sopra il letto, è finito. Una camera che avevo pagato allora, in quel periodo ho pagato roba di 17-18 milioni, stile veneziano, eccetera. Quando è caduto l'armadio, è caduto sulla sponda del letto, quando la parte dei piedi, no? E gli era spezzata in due, perché? Perché era il polietilolo, per dire no. E guarda, ci sono tante quelle truffe che non finiscono mai. Però ripeto, anche con un materiale scadente, se è lavorato bene nei modi dovuti, tipo i vegiunzioni, il rivestimento stesso del strutturale, si può fare un buon lavoro lo stesso, solo che cosa vuoi, non te ne fanno, se no costerebbe troppo, tanto male fare una camera come si deve, allora. Sarebbe il materiale più adatto, più idoneo, migliore. assoluto. Il ristellare è tutto vecchio detto, che è pure rivestito con del rivestimento di noce tanganica. Noce tanganica ha un suo colore particolare, poi tu te lo colori come vuoi, tu falegname, per dire te lo colori come ti pare, ti piace, e lo fai passare per noce, per palisandro, per tutto quello che vuoi, per moga, per tutto quello che vuoi, capito già? Comodino, si possono fare il martello, fabbrica. Thank you.